Buonasera a tutti, siete sintonizzati sulla frequenza 101.9 di Radio Alma, questa è Brussellando. Nell'attesa che la nostra conduttrice e i nostri simpaticissimi ospiti arrivino, purtroppo oggi a Bruxelles non so cosa è successo, ma c'è un traffico incredibile, avete qualche minuto con Dani M, con il regista della trasmissione, e questi minuti spero che siano brevi, ma spero soprattutto che li passerete in un modo piacevole con me. E per iniziare voglio ricordarvi alcuni eventi che avranno luogo prossimamente a Bruxelles. Prima di tutto ritorna il Couleur Café dal venerdì 29 giugno, quindi questo venerdì, fino a domenica 1 luglio. Couleur Café, il simpaticissimo festival musicale di musica urbana, unico nel suo genere, avrà luogo a Tour et Taxi, Avenue du Port 86 a 1000 Bruxelles. Moltissimi artisti molto, molto importanti, molto conosciuti saranno all'affiche. Voglio segnalare per esempio i Godot al Bordello, Zebda, Sean Paul e soprattutto Boban i Marko Marković Orchestra, che è un gruppo credo serbo molto simpatico che allieterà, immagino, i partecipanti e il pubblico di Couleur Café. Soprattutto spero che faccia bel tempo, perché insomma prima di tutto ne abbiamo bisogno. Penso che un maggio e soprattutto un giugno così orribile dal punto di vista meteorologico era da un bel po' che non che non li vivevamo qui a Bruxelles. E il Couleur Café è un festival, diciamo, da in là alla grande serie di festival musicali belgi, e quindi insomma, se là viene dato in maniera insomma più simpatica, più carina, con un bel sole, con tanto pubblico, ancora meglio. E poi soprattutto vi voglio segnalare un altro evento che riguarda la finale degli europei. Questa finale non sappiamo ancora chi giocherà in finale, perché come sapete avremo una semifinale domani tra Spagna e Portogallo, e avremo un'altra semifinale dove per fortuna e con grande gioia di tutti noi giocherà l'Italia, Italia-Germania, un remake della semifinale dei mondiali del 2006. Ecco, non sappiamo ancora chi sarà in finale, ma di sicuro sapremo che ci sarà un grandissimo spettacolo, grandissima emozione, e quindi il centro della Voluve Saint-Pierre, vicino alla Maison Communale, ha già deciso di organizzare un barbecue in previsione della finale, barbecue che inizierà molto presto, dalle 11 alle 2, sarà seguito da una serie di animazioni musicali fino alle ore 20, e successivamente a partire dalle 20:30 vi sarà un maxi schermo gigante dove verrà proiettato il match. Quindi insomma invitiamo tutti gli ascoltatori a recarsi al centro culturale della Voluve Saint-Pierre, Avenue Charles Tilleman 93, a vedere questo match. E ora un brano musicale. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Maridia ai microfoni, scusatemi per questo brevissimo ritardo, ma eravate in ottime mani in compagnia del nostro Dani M. Dai, avete sentito un po' la voce del regista? Di tanto in tanto, insomma, fa piacere ascoltare anche lui. Scusateci di tanto in tanto il traffico bruxellese, soprattutto con una giornata stupenda, finalmente, come quella di oggi, siamo in estate, abbiamo potuto usufruirne un po'. E questa sera, come anticipato la settimana scorsa, avevo modo di parlare di un tema sicuramente a me molto caro, probabilmente caro anche a quei 21 milioni di telespettatori che hanno seguito in diretta la nostra nazionale. Quindi stasera parliamo di europei, probabilmente parleremo un po' così en passant anche di olimpiadi, e sono particolarmente contenta perché lo faccio con due ospiti di eccezione, due ospiti che vi stupiranno per le loro conoscenze tecniche, probabilmente potrete già sentirli sorridere. Non vi stupite se non sono giornalisti, se non sono dei commentatori, dei cronisti o degli scrittori, però vi posso garantire che sono delle promettenti stelle, uno di sicuro del giornalismo belga, diciamo, probabilmente europeo, va. Non è un po' troppo tutto questo? Assolutamente, è un modo per introdurvi. Quindi, Vincent ha già preso la parola. Vincent, benvenuto. Ciao, benvenuti a tutti. E diamo anche il benvenuto invece a François. Ciao, benvenuti. E questa sera parleremo proprio con loro degli europei, perché proprio mentre venivamo qui facevamo un po' un commento in generale. Però prima di parlare di questo tema così accattivante che piace così Darien, prima di voi c'è stata la trasmissione degli spagnoli. Loro hanno chiuso la trasmissione dicendo finale Portogallo-Italia. Beh, allora poi facciamo anche il nostro pronostico, perché qua è interessante. Voi sapete, Radio Alma è una radio multiculturale, multilingue, dove insomma tante realtà coesistono, e mi piace il verdetto spagnolo perché è anche un modo per insomma per anche io ho risposto che secondo me sarà Germania-Spagna, e così, quindi insomma, mi sembrava ovvio. Vediamo, assolutamente. Vediamo. Allora Vincent, raccontaci un po' di te. Allora, io ho 15 anni, 16 in dicembre, e vado a scuola tutti i giorni, mi mancano 2 anni, e quindi sono appassionato di calcio da quando ho 8 anni, tifo la squadra del Real Madrid, perché c'era Zidane, che Zidane era un idolo per tutti i francesi che seguivano il calcio, quindi sì. Madrid, e mi piace anche Napoli. E continui a seguire Real Madrid nonostante poi Zinedine Zidane, sì, abbia lasciato la squadra. E beh, fai bene, perché insomma è tra i club più blasonati d'Europa. François, invece, vuoi aggiungere qualcosa su di te? C'ho 10 anni, 11 in ottobre, vado alla stessa scuola di Vincent e tifo per il Chelsea. Beh, allora, nella stessa famiglia, 3 fratelli, perché il terzo non è qui con noi, tifano 3 squadre diverse, e questa la dice lunga anche sulla multiculturalità di cui parlavamo prima, che esiste proprio a Bruxelles. E tutti e tre sono tifosi di squadre che hanno vinto qualcosa, se non quest'anno sono stati molto fortunati. Partiamo dal Chelsea. Che cosa ha vinto il Chelsea, François? La Champions League. Noi abbiamo vinto quindi un campionato di Spagna che abbiamo lasciato ai nemici del Barça da 3 anni adesso, e finalmente abbiamo ripreso. E poi Paul, che non è qui con noi ma che salutiamo con estremo piacere, ovviamente ha festeggiato invece lo scudetto juventino, quindi insomma il ritorno allo scudetto della Juve, quindi mi pare che in famiglia ci sia stata grande festa. E siccome parliamo di festa, ecco, Napoli ha vinto il trofeo della Coppa Italia dopo 22 anni, quindi insomma mi sembra giusto. Quest'anno calcisticamente manca quindi la ciliegina sulla torta, ecco, siete d'accordo con me? Ciliegina sulla torta, Diamanti, giocatore del Bologna, segna il gol all'88esimo e l'Italia vince gli europei. Quindi tu parli già della finale? Vabbè, ma stiamo andando troppo veloce, DM, non accelerare. Non ci stiamo ancora in finale. No, non ci siamo ancora. No. C'è ancora molto tempo. Basta, toglimi una curiosità. Allora, io so che, come tu dicevi, ami tantissimo il calcio. E dacci un tuo commento in generale su questo europeo. Ti aspettavi questa semifinale? Ti aspettavi qualcosa di diverso? C'è un'equipe che ti piace più di un'altra e che avresti voluto vedere in semifinale? Allora, molte sorprese, come la squalificazione dell'Olanda dal Portogallo, ma, sì, ma quando c'è un mostro in una squadra che si chiama Ronaldo e che ha questo potere di vincere una partita con le sue sole abilità, tutto è possibile. Poi nel gruppo A, quello mi ha molto sorpreso, la Russia che aveva cominciato benissimo. Che poi è finita battuta dalla Grecia, penso. E sono anche un po' triste per la Polonia e l'Ucraina che hanno tutto organizzato, che come in 2010, come in 2008, i due paesi che organizzano stanno ancora eliminati subito. E sono anche molto rammaricato dalla squadra francese. E tu avresti sperato in un risultato un po'... Aspettavo molto che... Sì, perché sono anche francese. Aspettavo molto da questa squadra che quando vedi gli attaccanti, hai Benzema che è una delle 5 migliori punte europee, hai Ribéry, che anche lui è un grosso talento, certo, sì, assolutamente. Ma Ludà anche forte. Beh, un po' vecchietto, ma sì, sì, sì. E François voleva forse aggiungere qualcosa in merito. Dopo la sconfitta della Francia contro la Suezia, con la Svezia. La Svezia, i giocatori francesi si sono un po' scoraggiati. Ma probabilmente. Beh, c'era molta euforia. Io ho letto sul giornale addirittura durante il ritiro per la partita successiva, quindi che era proprio per l'appunto il quarto di finale, erano state già invitate le compagne, le mogli, insomma, sì. L'ho trovato poco serio anche da parte della federazione, perché credo che se ci siano delle regole rispettate nel tempo in maniera continuativa ci siano delle ragioni ben valide. Questa partita con la Svezia nel, quindi dopo la partita nei spogliatoi, ho letto che i giocatori hanno avuto tra di loro molti, beh, che si sono un po' arrabbiati, soprattutto Mvila, Nasri. Parliamo di Nasri, era una domanda che ti volevo fare. A me ha molto sorpreso la sua dichiarazione, l'ho trovata un po' forte. Secondo te come mai lui si è espresso in questo modo, provocando in maniera così significativa il giornalista? Che poi ha avuto 2 anni di sospensione con la nazionale, quindi non andrà in Brasile in 2014. Ma francamente è stato molto violente, ma la sua reazione io la posso bene... Dici che non la giustifichi, ma la comprendi. I giornalisti l'hanno distrutto, l'hanno tutti su di lui. Era molto attesa, quindi, attaccato. La sua prestazione. Sì, e appena che faceva una piccola errore, subito tutto su di Nasri, e alla fine tutta questa frustrazione, questa tensione fa che c'è un momento dove non... Certo, alla fine magari poi della prestazione medesima, magari poi il controllo non è più lo stesso come durante la gara. Sono anche stati sospesi Mvila e Ben Arfa, che secondo me sono grossi talenti, sì, che quindi queste stupidaggini possono... comunque penalizzare la carriera, assolutamente. Sì, insomma, sì. Poi quando queste cose si... possono costare molto alla loro carriera, che avrebbe potuto essere grande, perché hanno molto talento, soprattutto Ben Arfa, che in fine stagione ha fatto una partita incredibile con la sua squadra Newcastle, con questi gol incredibili, e ha fatto una partita che non c'è riuscito, e beh, poi si è arrabbiato. François, a me per riprendere quello che stavi dicendo, mi viene in mente subito da fare un parallelismo tra la brutta performance della Francia, che nonostante la qualificazione è uscita ai quarti molto, molto male, e la bruttissima performance dell'Olanda. Entrambe, secondo me, squadre fatte di solisti, di gente un po' egoista, soprattutto l'Olanda. L'Olanda di sicuro non è finalista 2 anni fa ai mondiali. Non è l'equipe che noi abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Sicuramente ci aveva un po' illusi, non aveva perso nessuno dei match di qualifica agli europei, era prima nel suo girone, e magari con l'amaro in bocca ancora della sconfitta ai mondiali 2 anni fa, io mi aspettavo sinceramente una performance, tant'è che penso sia anche abbastanza noto, avevo scommesso notoriamente pure Dani M proprio per l'Olanda. Di sicuro c'è un discorso che sta emergendo nel calcio in maniera significativa, e ci sono esempi in tal senso che incitano più ad un gioco, diciamo, individuale. Vedi per esempio lo stesso Ibrahimovic. La Olanda per me sono tutti ego, che esatto, che non vanno in armonia, e quindi se uno vuol fare quello è... Do la parola a François, poi concludo, perché invece c'è qualcosa di differente che è accaduto invece nel gioco italiano. Questo va sottolineato, perché finalmente io seguo la nazionale da quando avevo 5 anni, quindi insomma di tempo ne è passato, insomma quasi un trentennio si può dire, l'ho seguito con molto molto amore da sempre, però il gioco che ho visto in questi europei, e questo credo sia veramente merito di Prandelli, è un gioco finalmente nuovo, è un gioco collettivo, è un gioco di squadra, è un gioco dove ti puoi permettere il lusso in una partita tanto delicata di sostituire De Rossi, sì, esattamente. Per esempio, cioè, finalmente c'è un e gioco, ti entrano Nocerino e gioca bene, e ti entrano due ragazzi che comunque non hanno un'esperienza internazionale o comunque di carriera così importante come Nocerino, Nocerino. Cioè, io stessa avevo dei dubbi proprio per l'importanza della partita, e Diamanti che invece realizzano quei rigori così fondamentali, il quarto e il quinto, che poi ti assicurano l'accesso in semifinale. François e poi nuovamente Vincent. Mi sembra che Benzema gioca meglio quando c'ha Ronaldo vicino a lui per fargli cross, perché con le partite della squadra della Francia giocava meno bene che al Real Madrid. Ma sai, magari le dinamiche nazionali sono un po' diverse dalle dinamiche di club. Sì, sì, certo, ma Vincent, cosa ne pensi? Come Messi, come Cristiano Ronaldo, Benzema è nello stesso caso, gioca a un gioco eccente nel suo club, dove vive e quindi con chi si allena tutti i giorni, ma con la nazionale, come Messi e come Ronaldo, è un po' più difficile ad adattarsi, ma Benzema nel gioco io penso che non ha fatto un campionato bruttissimo, solo che c'ha questa frustrazione di non aver segnato, che alla fine l'ha disturbato e l'ha fatto per un attaccante, ti posso assicurare, per me che gioca al calcio, non segnare è qualcosa che ti segna in un certo senso, sì, perché poi il gol è liberazione. Noi stiamo parlando, gioia. Abbiamo parlato di tante squadre finora, ma secondo me non abbiamo parlato di due squadre molto forti. Daniele, ci stiamo arrivando piano piano, perché a Benzema mi è venuto in mente subito Klose, che per la quarta volta consecutiva in un torneo internazionale fa gol. Klose è di qualità. Facciamo parlare François. E anche l'Olanda non la vedevo andare tanto lontano, perché i giocatori non sono tanti d'accordo tra di loro. Purtroppo è proprio così, insomma. È quello che ho detto, sono un ego più un ego più un ego, non vanno insieme in armonia, quindi non il calcio non è 1 contro 11, è 11 contro 11. Assolutamente, è un gioco di squadra. E a proposito di questo, volevo parlare appunto di queste due squadre, che comunque, anzi tre, perché in tutto questo io credo che la performance del Portogallo sia estremamente interessante, perché forse delle squadre di cui abbiamo parlato è quella dove elementi individuali come la figura di Cristiano Ronaldo di sicuro fanno la differenza, dove la squadra poi non è così forte, però tutto è costruito intorno al carisma, alla bravura, al talento, alle abilità di Cristiano Ronaldo. Però in tutto questo emergono secondo me Germania, Spagna e Italia, dove invece, se è vero che magari Alonso per la Spagna, Pirlo per l'Italia, e poi mi sfugge il nome, Gomez per la Germania, Ozil che è un regista straordinario, credo che sia un talento effettivamente della natura, però sono squadre che hanno dimostrato un gioco di equipe, sono squadre in cui abbiamo visto che c'era margine proprio per andare avanti. Noi italiani siamo stati spreconi, abbiamo realizzato tantissimi tiri che poi in realtà non si sono concretizzati, diceva Prandelli oggi, dichiarava la stampa che 7-8 partite di questo genere prima o poi insomma anche la macchina da gol si aprirà, tenendo conto, e poi con questo lascio a tutti la parola, che non abbiamo più un attaccante puro come è stato in passato, cioè noi siamo stati abituati a Christian Vieri, a grande Toni quando era insomma ai mondiali che era in forma, lo stesso Iaquinta, bravo, nel 2006 lo stesso Iaquinta, quindi è cambiato anche il gioco italiano. E c'è un dato che mi ha allarmato, rattristato e sconcertato, è che noi a livello giovanile siamo 17esimi, quindi secondo me la stessa federazione dovrebbe ripensare un attimo anche il nostro vivaio. Non ci sono solo stranieri, sicuramente benvenuti, perché insomma il bello del calcio, altrimenti non avremmo avuto Maradona, Pelé, tantissimi giocatori che hanno arricchito il calcio italiano, Pelé no, ma Maradona sì, però esistono anche i nostri vivai, e Nocerino, Diamanti, lo stesso Abate al Milan. Rendiamoci conto che nella nazionale non c'è un giocatore dell'Inter, per esempio, dell'internazionale, che pure è si è qualificato, insomma, quinta, quarto posto alla quinta. No, perché il quinto era il Napoli, quindi la squadra dell'Inter sono tutti non c'è un italiano che che titolare all'Inter? Ma per la prima volta dagli ultimi anni c'è un giocatore della Serie B, Ogbonna del Torino, che è stato portato agli europei. Assolutamente, questo che ancora non ha potuto giocare, ma ci auguriamo che almeno Prandelli gli possa dare uno sprazzo, un momento per tornare potersi esibire. A quello che diceva Maridì, la Spagna contro la Francia ha fatto 3 tiri in porta e 2 gol. L'Italia ha fatto 34 tiri contro l'Inghilterra e 0 gol. Secondo me non è solo una questione di attaccante, è una questione anche di lucidità. Tant'è che Alonso è un centrocampista. Di efficacità. Di sicuro c'era molta tensione, non ci dimentichiamo quando poi si scende in campo c'è un po' la tensione, Ballotelli è comunque stato preso di mira dalla stampa, Ballotelli ha pure sbagliato tanto durante il match, però è un ragazzo di comunque di 20 anni, 21 anni, è emerso 21. Da qualche tempo, quindi credo che gli spazi per maturare, di maturità di questo atleta siano straordinari, anche perché fisicamente è straordinario, poi regge comunque le partite in maniera intensa, insomma si può vedere che, però si può vedere allo stesso modo che effettivamente è un po' come un marmo, no? Un pezzo di marmo, come diceva Michelangelo, che va perfezionato, e in questo sono d'accordo con Prandelli che gli dà fiducia. Daniel ci suggerisce un brano musicale e noi poi ritorniamo per riparlare di europei. Cari amici, cari amiche, ecco, sono Vin Sim, quindi su Radio Alma, Brusellando, tutte le martedì sera alle 8, 101.9, quindi stiamo parlando dei europei di quest'anno, eravamo stati quindi al soggetto del gioco dell'Italia, della Spagna e della Germania, che ci ha tutti stupiti. Io volevo solo dire una cosa, che la Spagna, beh, ce l'aspettavamo, hanno vinto in 2008, in 2010 con il suo gioco in passaggi, tiki-taka, Iniesta, quello lo sappiamo. Poi la Germania era anche molto attesa, che è una grossa squadra, che è andata in finale in 2008, in semifinale in 2010, e che era una delle squadre favorite, ma c'è l'Italia di che io non mi aspettavo niente, e che si è messo al livello di queste due squadrone, e quindi per me è una delle sorprese, quindi questo gioco in passaggi orchestrato da Pirlo con un muro dietro Buffon, e quindi penso che gli italiani devono ringraziare i vecchi che sono la base di questo gioco, quindi Buffon, De Rossi, Pirlo lo stesso Chiellini, insomma, pure sei anche infortunato. Poi Chiellini. François, Balotelli dovrebbe un po' concentrarsi di più, perché sembrava che non era tanto concentrato, perché c'era tanta azione che poteva bene utilizzarle, ma che le ha lasciato scappare. Super Mario per me era soprattutto molto teso e giocava poi contro gli inglesi. Lui gioca nel campionato inglese, quindi poi, voglio dire, insomma, sicuramente lui aveva una doppia pressione, quella poi della... c'è una altra cosa che è che il portiere inglese si chiama Joe Hart, che non è l'ultimo arrivato, è quello assolutamente con chi Balotelli si allena tutti i giorni, e quindi Joe Hart conosce benissimo il suo gioco, i suoi tiri, come fai passare, quindi Joe Hart era, però il rigore l'ha realizzato Balotelli, che è stato straordinario, perché è stato il primo quell'uomo è sempre molto coraggioso e mi stupisce. Ma quello che mi ha stupito molto è la panenka di Pirlo al terzo rigore. Scusatemi, così vi diamo anche la parola. Avete potuto capire che sia Vincent e François sono italiani a metà, perché poi l'altra metà è anche francese, quindi insomma il loro italiano è ovviamente eccellente, data la loro età, dato il contesto, insomma, nel quale vivono. Tra l'altro frequentano il liceo francese, quindi insomma veramente francophone 100%. François, però, vuole aggiungere qualcos'altro. Il cucchiaio di Pirlo era veramente molto osato. E all'inizio del cucchiaio, quando la palla era in aria, sembrava che usciva. È stato un momento è stato un momento di tensione. Montolivo ha appena sbagliato il rigore, un rigore comunque insomma importante, gli inglesi erano in vantaggio. Pirlo ha dichiarato di aver voluto tentare il cucchiaio anche per impaurire psicologicamente gli inglesi, credo ci sia riuscito insomma. Oggi in conferenza stampa ha detto che voleva smorzare le ali di Joe Hart, assolutamente, poi insomma ci è riuscito benissimo. D'altronde sono pochi i giocatori che negli anni hanno fatto queste cose. Beh, diciamo che c'è Zidane nel 2006, assolutamente, ma prima ancora, forse tu hai troppo piccolo, Totti nel 2000 contro l'Olanda, e ancora prima nel 1976 ce n'era stato un altro, Palenka. Bravissimo. Che ha dato il nome a questo gesto tecnico. Che ha dato il nome, appunto. Ma questo è francese, però, perché in italiano è cucchiaio. Sì, in Italia si chiama cucchiaio perché è così. Però Palenka nel gergo calcistico è come dire zona Cesarini. Perché zona Cesarini? Perché Cesarini è un giocatore che faceva sempre gol tra l'87esimo e il 90esimo. E il 90esimo, assolutamente. Ragazzi, che cosa vi aspettate in termini di formazione da Prandelli? Pensate che farà qualche modifica, porterà qualche modifica, oppure pensate che manterrà la rosa che ha cominciato proprio contro gli inglesi? Secondo me non deve cambiare niente, che perché è una squadra che ha funzionato molto bene e che può rifare quello che ha fatto domenica sera, ma il problema non è qua, il problema è quello della fatica. Gli italiani hanno giocato mezz'ora di più, hanno due giorni in meno nelle gambe, due giorni in meno sono andati ai rigori, quindi c'è una fatica. Sì, vedeva già alla fine della partita che quelli come Pirlo, Balotelli erano completamente distrutti, e non so se farà cambiamenti. Forse Balotelli può mettere Niatale, ma Pirlo è impensabile cambiarlo, perché è il maestro del gioco. Prandelli diceva che Pirlo aveva stupito favorevolmente perché è un uomo straordinario, riesce a rendere quei 90 minuti come pochi altri. Quindi io in realtà sull'effetto fatica, giocando anche a calcio, vi posso assicurare che c'è anche l'entusiasmo. Quello che mi stupisce nel gioco di Pirlo è che quando ha la palla trova sempre una soluzione. Assolutamente. Non la perde mai, sta nelle questo è verissimo, molto è veramente complicate, ma sempre c'è una soluzione di Andrea Pirlo, e quello Pirlo che era dato per vinto qualche anno fa, ricordiamoci il Milan l'ha ceduto facilmente alla Juventus, e che di sicuro la Juventus, se ha vinto questo titolo, lo deve molto anche ad Andrea Pirlo, sì. 34enne in forma straordinaria. Se ero al posto di Prandelli e che dovrei scegliere una tattica, continuerò a mettere questi giocatori, se bisogno fare dei cambi come ha fatto per le prime partite. Io molto onestamente farei giocare Di Natale, perché secondo me insomma può fare la differenza. Non so quanto farei giocare Cassano, molto onestamente lo farei riposare e magari entrare nel secondo tempo piuttosto che farlo entrare subito ad inizio gara. Che cosa ne pensate? Come l'avete visto Antonio Cassano, reduce, ricordiamo, da questo intervento al cuore per il quale poi è stato fermo tanti mesi, è rientrato nel campionato solo ad aprile, insomma operato ad ottobre e rientrato ad aprile. Se l'Italia vince gli europei, quello che non mi sembra facile, sarei al posto del capitano, al posto non leverei, darò il mio bracciale di capitano a Cassano. Tu daresti la tua fascia di capitano a Cassano. A Cassano, così solleva lui come ha fatto Carles Puyol con Abidal nel 2011. Ecco, ma noi ce l'auguriamo, guarda, se proprio dovessimo farci un auspicio, io mi auguro tanto che Buffon possa cedere la sua fascia di capitano e far alzare la coppa di campioni d'Europa a Cassano. No, io penso di no, perché Buffon ha fatto una stagione incredibile, una carriera incredibile, e merita almeno un'ultima immagine di lui sollevando questa coppa, perché per il momento se c'è un altro giocatore che Pirlo, che Prandelli può ringraziare, è Buffon che ci ha parato due rigori, ha parato questo rigore insomma veramente ipnotizzando Young. Ma, qualcuno poi ha provato ad ipnotizzare Diamanti, questa foto ha fatto un po' il giro del web. Pare che sia un fotomontaggio. Io lo credo, che non credo sia vero, però questa foto poi è girata, insomma, per quanti conoscono la notizia sapranno anche di che cosa stiamo parlando. Invece è vero che Joe Hart avesse messo le borracce color fosforescente vicino al palo per attirare l'attenzione del giocatore in modo tale che inconsciamente il giocatore tirasse su quel palo lì. Questo è stato fatto veramente. Beh, questo insomma dimostra poi che, come diceva il Sole del 24 Ore proprio ieri, diceva, beh, giustizia è stata fatta. È una buona idea. Sì, ma vincere. Non so. Ma se no è un po' ingiusto. Assolutamente, no, giustizia è stata fatta. Smettendo un attimo di parlare dell'Italia, perché ovviamente è la nostra nazionale, è la nostra squadra. Ivo, tu hai seguito un po' gli europei? Io sono una di quelle che sono proprio analfabeti di calcio. Però ho visto la partita, l'avevo visto con degli amici inglesi, in un pub inglese, e quindi Roberto a squarciagola stava facendo i commenti in italiano, mentre accanto tutti saltavano in giro quando succedeva qualcosa con l'Inghilterra, quindi era molto buffo. E che cosa pensi di questa squadra? Dai, un sentimento così, insomma, un... Beh, quello che mi è sorpreso erano le tante occasioni, direi. E l'altra cosa che mi ha sorpreso erano le tante occasioni che non sono andate in porto. Cioè, fondamentalmente, questo che era molto, molto ovvio per me come analfabeta, comunque era un gioco molto dinamico, quindi interessante. Mentre generalmente... Quindi non ti sei annoiata? Non mi sono annoiata, anche se, cioè, spesso mi annoio quando tutti giocano difesa, eccetera, mi annoio a morte. Però questa era una bella partita. Beh, di sicuro la difesa a catenaccio, che c'era stata tanto contestata, è venuta meno, quindi probabilmente Prandelli è stato veramente bravo a creare un modello, ma soprattutto una mentalità tra i ragazzi che finora mancava. Poi le stesse scelte che ha fatto, secondo me, sono state molto coraggiose. E tornando ancora a questi europei, siamo ormai verso la fine, giochiamo le due semifinali e poi la finale. C'è un gesto atletico, oppure un giocatore, oppure una squadra che vi ha... un momento di cui vorresti ancora parlare prima di salutarci, perché ahimè il radio, il tempo è tiranno. Io non ho visto tutte le partite, ma dalle partite che ho visto, quindi riveniamo ancora alla squadra italiana, e quindi sempre nella stessa partita contro l'Inghilterra, al secondo minuto quel palo di De Rossi che a me mi ha stupito, hanno appena iniziato, 30 secondi dopo, bam, palo, penso che col coraggio che ha avuto De Rossi di tirare così presto, così che non aveva molte chance di segnare, si meritava un gol. Poi il tiro era con l'esterno del piede, era veramente fantastico. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensa il nostro amico Ludwig, lui che tanto ha scritto anche della fisica legata al calcio. François? Per me il rigore in favore della Germania, no, della Grecia contro la Germania non c'era proprio, perché non l'aveva appena toccato. Ma sai, secondo me a quel punto la partita era già determinata, erano già sul 4-1, no, sì, cioè. Era al 45esimo, l'arbitro probabilmente... Ha voluto premiare sicuramente la bontà dei greci, i quali, ricordiamoci, comunque hanno giocato egregiamente. Ci sono stati due minuti nei quali credo l'Europa intera si sia fermata un secondo e sperato che un piede o una testa greca potesse compiere il miracolo, quel miracolo tanto atteso di battere i tedeschi. Ma poi, insomma, come abbiamo già detto, l'equipe tedesca è straordinaria. A me sono piaciute molto due cose, forse già scontate, di cui forse tanti già hanno parlato: il gol di Balotelli in rovesciata e il gol di Ibrahimovic non so nemmeno come dire, sforbiciata. Li ho trovati due gesti atletici straordinari e che hanno sicuramente dato delle emozioni vive e indimenticabili. E proprio come diceva Vanzano, poi c'è questo tiro straordinario di De Rossi dai 30 metri. Sicuramente se De Rossi avesse segnato, questo sarebbe stato definito a ragione un Eurogol, come diciamo noi in Italia. I due gol che hai menzionato mi sono piaciuti tantissimi, ma tra i gesti tecnici direi anche la parata del portiere polacco all'esordio, subentrato dopo l'espulsione del portiere titolare per fallo da ultimo uomo. Entra 1-1 Grecia-Polonia, se la Grecia vince la Polonia praticamente è fuori, lui entra e para il rigore, incredibile. Beh, lui si chiama Titano, no? Qualcosa del genere. Sì, sì, è titanico. Vedi, Titano di nome e di fatto. Allora, pensiamo allora a che cosa accadrà. Prima giocheranno Portogallo-Spagna, un derby tra cugini, e poi tra Germania e Italia. Solo dire una alfa cosa, quindi mi è molto piaciuto Shevchenko, che io me l'ho completamente scordato. Voglio ricordarvi a tutti che è il pallone d'oro 2004, che è il trofeo individuale il più prestigioso del mondo, e che io me l'ero totalmente scordato, e quindi ho visto la prima partita Ucraina-Svezia e mi ha veramente stupito con questi due colpi di testa. È stato bravissimo Shevchenko, in effetti. Poi l'ultima partita, la terza, quella che avrebbe potuto ancora garantire l'accesso ai quarti di finale, lui aveva un stiramento alla coscia ed è entrato poi gli ultimi 15 minuti, credo proprio come gesto d'amore verso la squadra e soprattutto di speranza verso i tifosi. Sì, poi ricordiamoci il gol, i suoi ultimi minuti, i suoi ultimi minuti, perché poi insomma non giocherà, quindi di sicuro è un giocatore che noi in Italia abbiamo avuto modo di apprezzare per tanti anni, perché è stato un rosso nero per anni e che col Milan ha vinto tanto. E che poi quando è andato al Chelsea non ho capito cosa gli è successo. Ma sai, a volte sai cosa capita ad un giocatore? Cambi maglia, cambi motivazioni, cambi spogliatoio, cambi allenatore, perché c'è una cosa di cui nessuno parla, ma che è importante nel gioco del calcio, ed è la relazione con l'allenatore. L'allenatore ti motiva, l'allenatore ti dà gli stimoli, l'allenatore ti prepara. L'allenatore è un po' come se diventasse un po' il maestro, insieme anche il padre. E ovviamente quando è arrivato al Chelsea, chi era? Ora è una domanda abbastanza, forse François ci può aiutare. No. Daniele, forse tu? Dicevi? Quando Andrei Shevchenko è arrivato al Chelsea, secondo me chi poteva essere all'epoca? L'allenatore era Ancelotti. Carlo Ancelotti, era già lui? Sì. Perché poi dopo c'è stato datemi un minuto che dopo dico. C'è stato Mark Hughes, penso. Ma allora avrebbe ma secondo me il problema di Shevchenko è che è come quando Kakà è andato al Real Madrid, quando tu sei un gran campione in una squadra, che pare ritorni al Milan Kakà, sì. Notizie degli ultimi, quando tu sei un gran campione in una squadra vai in un'altra, ci sono tantissime attese, il rischio è molto elevato di fare male, certo. E poi comunque il presidente Abramovic ci credeva molto, e secondo me considerando la somma che ha speso per averlo. Ragazzi, io vi ascolterei per ora. François concludi e poi dopo vi faccio un'ultima domanda. Pronostici. E come Alex, che se n'è andato da Chelsea per il Paris Saint-Germain, quando il suo allenatore è andato a allenare al Paris? Altrove. Sì. Ma sono dinamiche purtroppo abbastanza note. C'è chi riesce poi a rigenerarsi, c'è chi invece resta probabilmente ostaggio dei ricordi. Parliamo allora delle due semifinali, un pronostico così, poi ne riparliamo martedì prossimo. Portogallo-Spagna, non so. Per me 2-1 per gli spagnoli, un gol di Ronaldo e Iniesta, Xavi, sì. O un super Alonso. François, per te? 1-0 per la Spagna con un gol di Xavi. Bene, io vado contro tendenza, perché altrimenti non ci sarebbe divertimento. Spero che vinca il Portogallo, mi basta anche 1-0 con un gol di Ronaldo. Anch'io spero che vinca il Portogallo, ma sono realista. E quindi quando vedo i giocatori spagnoli contro quelli portoghesi è difficile pensare che... Assolutamente. Non c'è quasi speranza. Assolutamente, avete ragione. No, vabbè, io faccio prevalere le ragioni del cuore. Voi dai, anch'io Portogallo. Le ragioni. E invece veniamo all'altra attesissima semifinale. Italia-Germania a Varsavia. François. Io vedo bene l'Italia che vince con tutte le fortune 2-1 con un gol di Balotelli e uno di Natale, e per la Germania un gol di Gomez. Mi sembra un ottimo pronostico. Vincent, per te invece? Beh, a me ancora mi piacerebbe che l'Italia vinca, ma stessa cosa è quando vediamo i giocatori tedeschi che hanno un effettivo molto molto più ricco, perché se i quattro attaccanti, quindi Özil, Podolski, Müller e Gomez sono assenti. Hai comunque Klose. Hai Klose, Schürrle, Reus e Götze che sono al livello di una semifinale, quindi c'è tutto, ma l'Italia ci ha fatto vedere che c'ha un bel gioco, quindi secondo me vanno a rigore 1-1, gol dei due Super Mario, Gomez e Balotelli, poi hai rigore con Manuel Neuer, la vedo difficile. È un grande lui, è veramente un grande portiere. Vedo una finale Spagna-Germania. Bene, allora, per dare anche la mia, io credo che l'Italia vincerà, vincerà i rigori. François? Per la finale vedo bene Italia-Spagna e vincerà la Spagna, mi sa. E io punto sulla finale Italia-Portogallo vinta dall'Italia. Ai rigori per la Spagna. Io vedo in Italia-Portogallo 1-0 per l'Italia. Vincent, invece la tua finale? A me, quindi è quello che sogno, Italia-Portogallo, che offrirebbe un pallone d'oro a Ronaldo, che se lo merita. Speriamo, dai. Sì, che l'era Messi, prima o poi termini. Drogba merita di più. No, ho visto stamattina che quindi adesso possiamo un po' parlare del mercato, che il Barça sta per firmare Drogba. Drogba che va al Barcellona. Drogba era straordinario, stava quasi per andare in Cina e ovviamente voglio andare al sole e a Barcellona, lo credo. È già meglio da andare a Barcellona che in Cina, ma spero che a Barcellona non giocherà bene. Ma chissà, auguriamoci invece esattamente il contrario. Vincent, François, io vi ringrazio veramente della squisita partecipazione. Ecco, grazie. Io vorrei fare una piccola dedica a Dugello. Sì? E ecco. Dugello, i saluti anche da Bruxellano. Invece per te, François? Una dedica al regista Daniele. Oh, benissimo. E noi anche ci uniamo ai saluti di François per Daniele, e che vedo già lì pronto, quindi sarà con qualche suggerimento da lì a poco. Ascolterete. Librangolo. Beh, non sono Giorgio. No, e ci manca un fischio di... Eccolo lì. Grazie. Abbiamo adesso tutto. Allora, stasera vi parlerò di una lettura relativamente leggera. Però relativamente, tutto è relativo. Quindi si tratta di un libro di Tracy Chevalier, che magari riconoscerete come la scrittrice della ragazza con l'orecchino di perla. Assolutamente, che ha fatto tanto successo, e ha scritto anche a delle altre cose, e generalmente quello che io apprezzo è che riesce a scegliere con un buon istinto dei momenti nella storia che sono interessanti. Poi la qualità in cui riesce a svilupparlo è un'altra domanda, cioè io generalmente rimango leggermente insoddisfatta, anche se, cioè, come idee mi piacciono, spesso anche i suoi personaggi mi piacciono, ma spesso rimango un po' come con l'appetito svegliato ma non appagato. E quindi stasera vi parlo di un suo libro che si chiama Di Creature Divine, penso, in italiano. In cui si tratta di una giovane ragazza che proviene da da una famiglia umile e che vive a Lyme Regis in Inghilterra, ed era una ricercatrice, cioè una trovatrice di fossili molto talentuosa, perché Lyme Regis era una di quelle zone in Inghilterra dove si trovavano un sacco di fossili, incluso di grandi animali come ichtiosauri, eccetera, eccetera. E infatti lei fu una delle prime che ha trovato un intero scheletro di ichtiosauro e poi anche altre creature di grandi dimensioni, e che aveva anche la professionalità di mettere tutto insieme, e che però ovviamente doveva cioè faceva molto fatica ad essere riconosciuto in un mondo, nel mondo del XIX secolo, prima di Darwin e molto prima del femminismo, diciamo. E quindi lei è comunque, cioè in questo libro si presenta la sua amicizia con una donna più anziana che ha la stessa passione, e che infatti le dà una mano anche nell'essere riconosciuta come per il suo talento e per le sue trovate. E quindi più o meno si tratta di questo, è un po' la storia di questa amicizia fra due donne. Dall'altro lato è invece un po' la storia dei primi pensieri su queste creature che sono là, che si trovano e che però non si riescono a collegare a niente di vivente. E infatti per le prime persone che hanno trovato dei fossili, questa era anche una domanda di fede. Cioè, allora Dio ha creato delle cose che poi ha abbandonato, quindi hanno fatto un sacco di queste domande e per la prima volta, quindi praticamente sembrava un'eresia in un certo senso, e quindi magari leggendo questo libro possiamo anche capire qual era l'atmosfera in cui arrivavano poi le scoperte di Darwin. Quindi da questo punto di vista questo è un libro. Ma l'autore che posizione prende? Si schiera per l'eresia o si schiera invece per qualcos'altro? No, non si schiera. Cioè, come ti dicevo, qualcosina ti lascia comunque con il gusto nella bocca che non ti ha risolto le cose. Quindi apre più la porta agli interrogativi che magari non li risolve. Cioè, ci sono alcune discussioni che riporta con il prete del paesino che è proprio un ignorantone, praticamente. Cioè, non è che è un ignorantone, semplicemente non è che gli piace riflettere, quindi semplicemente dice che Dio semplicemente, no, tutto quello che ha creato esiste, quindi anche questi esisteranno da qualche parte. indipendentemente dal fatto che nessuno abbia mai visto una creatura così, cioè ci sono i pesci strani, ci sono gli animali mezzo pesci, mezzo animali da terraferma, cioè quindi comunque le stranezze. Toglimi soltanto una curiosità, allora, in italiano come si chiama? Divine creature, non ci potrei giurare, mi dispiace. In inglese, ma l'autore è ungherese? No, Tracy Chevalier, no. Giusto, è vero, è inglese, sì. Che è stata però tradotta in ungherese. Sì, è stata, cioè lei è oramai tradotta, cioè io questo l'ho... Sì. Lo osservare, lo sai benissimo, che bello. Infatti, specialmente sulla scia di questo grande successo della ragazza con l'orecchino di perle, comunque. Da cui hanno tratto anche un film. Da cui hanno tratto un bellissimo film, d'altronde. Bellissimo film, sì. Cioè, mi piace tantissimo, ha questa atmosfera davvero di quadri olandesi. Quel film è fotografato in modo fantastico, quindi. Straordinario. Ve lo posso davvero raccomandare. Assolutamente. Quindi, Tracy Chevalier, creature divine. Creature divine, una bella lettura da in spiaggia, secondo me, un libro magari che vi interesserà, magari in viaggio. Sì, è una cosa che vi interesserà, ma che non sarà pesante, diciamo. Quindi tu hai trovato che la lettura fosse piacevole, scorrevole? Sì, sì, assolutamente. Quindi non troppo. No, non è mai complesso, diciamo. Bene, mi sembra un ottimo suggerimento di lettura. Noi siamo alla fine, ahimè, andiamo velocemente. Ringrazio Fiordaliso che riesce sempre a stupirmi, lo dico sempre, però è vero, riesce sempre a darmi dei suggerimenti di lettura straordinari. Poi tra l'altro forse fra poco andremo in vacanza, quindi probabilmente riusciremo a leggere qualche libro in più. Ne approfitto per ricordarvi che siamo quasi ormai anche alla fine di Bruxellando, mancano 3 puntate per l'edizione di quest'anno, ricominceremo poi il 2 ottobre del 2012, continuate a scriverci, purtroppo in tanti siete lì in coda, ma è promesso, insomma, tutti quanti sarete intervistati. Ringrazio Dani M in regia. Grazie a tutti. Ringrazio Vincent. Grazie a voi per questo ascolto. Ringraziamo François. Grazie per l'ospitalità. E veramente vi devo ringraziare perché per loro è stata veramente la prima volta qui in radio, quindi li ho trovati strepitosi. Insomma, avevo detto bene all'inizio, visto che non avevo esagerato, dicendo che eravate due promesse. Io la seconda volta. Però è la prima volta che parli. Sì, sì. Ecco, vedi. Ringraziamo. Perché sono venuto seconda. Ecco, vedi. Salutiamo il nostro George, che non è potuto essere qui con noi questa sera, e ci auguriamo di rivedere la settimana prossima. Quindi ciao George. La nostra Fiordaliso, chissà che cosa ci dirà ancora da qui alla chiusura, quanti altri titoli ci darà. Vi auguriamo un'ottima settimana. Una settimana. Volevo solo anche dire che quindi se voi siete dei fan di queste puntate, quindi oggi facciamo una pagina Facebook e se volete raggiungere la pagina vi daremo molte notizie, quindi appena che possiamo, e metteremo in linea tutti i link delle puntate precedenti. Daniele, a proposito, vuoi ricordare il nostro blog? radioalma.eu/bruxellando. Ma c'è François che vuole dire una cosina prima di salutare. In chiusura, rapidamente. Grazie a Maridì. Oh, François, ti ringrazio. Noi vi auguriamo ancora, come appena detto, un'ottima settimana, e ci ritroviamo proprio qui sul 101.9 a Radio Arma, Bruxellando, martedì prossimo. Buonasera. Ciao.